Effetto Mondo. Dominion has stated the company has no ownership relationship with the Pelosi family, the Feinstein family, the Clinton family, Hugo Chavez, or the government of Venezuela. Neither Dominion nor Smartmatic has any relationship with George Soros. Smartmatic is a U.S. company and not owned by the Venezuelan government. E allora, buongiorno Giulia. Buongiorno. Dove ci hai portato in apertura? Una voce che non abbiamo mai sentito. No, in realtà è di un americano di seconda generazione, si chiama Joe Tobacco. E è uno degli anchorman di punta di questo network che qui da noi credo nessuno conosca, si chiama Newsmax, è nato nel 1998, è un canale via cavo molto più conservatore di Fox News. Se siamo abituati a pensare a Fox News come il canale americano, poi tra l'altro il suo fondatore è stato anche il protagonista di due serie TV, ma siamo abituati a pensare al network che ha molto favorito l'ascesa di Donald Trump per le ultime elezioni e lo ha sostenuto nella campagna elettorale. Beh, Newsmax è niente in confronto. E questo è interessante perché sono 8 minuti di apology, di scuse, chiarissime, senza se e senza ma, con gli ascoltatori, perché nelle scorse settimane queste due società che gestiscono alcune delle macchine per l'elaborazione delle schede elettorali, si chiamano Dominion e Smartmatic, sono state accusate di essere di proprietà della famiglia di Nancy Pelosi, poi di aver lavorato con Chavez per le elezioni in Venezuela. Sì. Poi di essere... Ma accusate da chi? Da questo stesso network? Da questo stesso network. Siccome sono state minacciate delle cause, e sappiamo come vanno queste cose negli Stati Uniti, milionarie e molto veloci, a Newsmax, per aver diffuso queste notizie assolutamente prive di fondamento, io delle apologies così nette e così lunghe non le avevo mai sentite. E comunque appunto si dimostra questo, perché una delle tante teorie complottiste, perché lo diciamo? Perché una delle tante teorie complottiste, avevamo sentito anche quell'avvocato poi rimosso da Giuliani e poi rientrato, un avvocato donna nel team di Trump, che diceva che era stato un problema di algoritmi truccati e corrotti che avevano cambiato l'esito della lettura delle schede elettorali. Queste due società sono state accusate di aver fatto proprio questo. E perché? Perché avrebbero avuto rapporti con la famiglia di Nancy Pelosi, di speaker democratica della Camera, con Hugo Chavez, con Soros, che salta sempre fuori quando c'è aria di complottismo. E quindi insomma mi è sembrato molto importante, una cosa che naturalmente alla quale molti network hanno dato un certo risalto, a parte chapeau per qualunque giornalista che si scusa pubblicamente per aver fatto un errore, però fa capire che si sta andando un po' oltre nello dar spazio alle teorie complottiste. Sì, devo dire che bisogna anche puntualizzare, almeno dal mio punto di vista, una cosa, no? Cioè, ricordiamo che insomma, ogni volta, forse sarà banale dirlo, ma se un network, insomma, un editore, un giornalista riceve una minaccia di una querela, magari milionaria, non è mai, dal mio punto di vista, una buona notizia, no? No, certo. Perché diciamo, si minaccia anche la libertà di stampa e di informazione. Però d'altra parte il giornalista deve avere sempre un fondamento a cui aggrapparsi per dare una notizia, altrimenti io vado in onda e dico accuso te di qualunque cosa senza alcuna prova, e questo non può neanche andare bene. E purtroppo le smentite, anche quelle scritte, è capitato anche a me di doverne fare per errori che ho scritto, di errori di valutazione, le smentite hanno inevitabilmente meno spazio, meno enfasi della notizia che quando la dai per la prima volta, quindi c'è sempre una sproporzione di effetto su chi l'ha ascoltata o su chi l'ha letta. Allora, che altro abbiamo come titoli però, diciamo, in primo piano sui giornali? Poi Giulia, c'è quest'altro problema, ne abbiamo parlato tanto, di questo stimulus bill da 900 miliardi di dollari, la seconda più grande piano di stimoli per l'economia della storia degli Stati Uniti, dopo quella di aprile, da 2,3 trilioni di dollari, quindi 2.300 miliardi di dollari, e Donald Trump, e questo è su tutti i giornali di oggi, ieri ha detto, l'ha ridicolizzata dicendo che 600 dollari di assegno sono una cosa ridicola, che bisogna portarla almeno a 2000 e che lui porrà il suo veto per il sistema di balance of power americano. Il presidente ha il potere di mettere un veto su una legge approvata dal Congresso. In realtà, anche se lo mettesse, torna alla Camera dei Rappresentanti controllata dai democratici, quindi non, questo veto verrebbe overridden, cioè su, superato. Però già solo dirlo, dopo che sappiamo che questo stimulus bill ha avuto una gestazione così complicata proprio perché i repubblicani avevano messo un tetto all'entità di questi assegni, naturalmente, come dicevi tu, l'annuncio intanto guadagna tutte le prime pagine dei giornali. Poi bisogna però spiegare, come cerca di fare Amy Klobuchar nell'audio che sentiremo, sì, che non si possono fare proclami di questo genere, perché sono nell'impossibilità delle cose e soprattutto nell'irrazionalità, perché questo pacchetto è il frutto di un compromesso e ha avuto tanti ostacoli, soprattutto da parte repubblicana. Poi l'altra notizia su Trump, poi sentiamo Amy Klobuchar, è che ieri ha ufficializzato altri 15 pardons, cioè provvedimenti di grazia presidenziale, che riguardano soprattutto persone che in passato erano state implicate nelle inchieste sul cosiddetto Russiagate, cioè dove era stata indagata Hillary Clinton. Anche qui molte critiche, perché il processo di grazia non è così come ai tempi di Tucidide: io decido che ti voglio graziare e ti grazio. In realtà c'è tutto un iter all'interno del Ministero della Giustizia che Donald Trump, tanto per cambiare possiamo dire a questo punto, non sta seguendo, quindi preoccupano questi provvedimenti dell'ultimo miglio. Amy Klobuchar, però, senatore del Minnesota e democratica, ricorderete, anche in corsa alle primarie, poi sostenitrice di Joe Biden, president elect, ha proprio in 5 secondi ha detto, secondo lei, che cosa sta cercando di fare Trump in questi ultimi giorni con questo veto, con questa minaccia di veto. Sentiamo. He is literally trying to burn this country down on his way out, as I said at the beginning. Dice, letteralmente sta cercando di bruciare questo paese, di fare terra bruciata dietro di sé prima di lasciare la Casa Bianca, un po' appunto come Nerone, che se poi sia stato veramente così, che ha bruciato Roma e poi l'ha guardata bruciare. Comunque gli storici su questo non sono d'accordo, però la metafora è efficace, cioè sono proprio provvedimenti incendiari questi che sta annunciando Donald Trump. Ups, suona il mio telefono. Incidenti del percorso. Capito. Qualche altro titolo, sì, così a spolvero un po' più in generale. Sì, poi guarda, questa nel curiosità, perché Elon Musk è sulla prima pagina del Wall Street Journal perché ha confessato che in passato aveva cercato di vendere la sua creatura Tesla, adesso credo che non lo vorrebbe più fare, al gigante della tecnologia Apple. Ma la cosa veramente curiosa è sulla prima pagina, ripeto, prima pagina sotto il disastro Brexit e Covid nel Regno Unito, del Financial Times, perché questa gigantesca fabbrica Tesla di cui abbiamo parlato, sì, che stava per essere, insomma, entrare nella fase importante della costruzione, 4 miliardi di dollari di fabbrica per produrre le macchine elettriche in Germania, un tribunale tedesco ha fermato i lavori perché abbattere gli alberi che devono essere abbattuti per far spazio a questa gigafabbrica mette in pericolo l'ecosistema in cui vive una delicata e preziosa lucertola tedesca. E mi è venuto un po' in mente, insomma, le nostre cose del TAR. Però, sì, detta così fa un po' ridere, no? Cioè, ma, come faccio un impianto, sì, sì, produttivo, esatto, da lavoro delle persone e mi tiri fuori la lucertola? Sì, sì, ma infatti ci sono già tutti i politici del Land che dicono: mamma, che figura che ci fa fare agli occhi della... Perché, insomma, è un po', appunto, è una cosa un po' all'italiana, se vogliamo, sì, no? Queste sentenze del TAR che bloccano tutto. Vedremo come andrà a finire, se la lucertola avrà la meglio, insomma, a sua insaputa, naturalmente. Magari si trova un altro spazio inutilizzato, ce ne sono tanti già fatti. O si fa un bosco all'interno della fabbrica dove la lucertola può continuare a vivere. Anche. Allora, sempre, diciamo, se vuoi dare un'occhiata ai titoli principali, se no ti lancio io un argomento che... Sì. Te lo lancio allora. Vai. Perché qui ci siamo distratti un attimo con Israele, è così, ti distrai un momento... E cade il governo. Sì, è il titolo a tutta pagina, rarissimo, del Jerusalem Post, perché Gantz e Netanyahu, ancora, lo ricorderete, ex rivali, entrambi, certo, conservatori, poi hanno fatto questo governo insieme. E basta, non riescono, niente, a mettersi d'accordo, quindi si va verso le quarte elezioni anticipate, credo che battano anche qualsiasi record italiano. Solo quattro, un anno all'interno mezzo di una stessa legislatura, sì, e in teoria della stessa legislatura, e poi soprattutto si va verso il terzo terzo lockdown. La riunione del governo per decidere eventualmente questo terzo lockdown, sarebbe il primo paese di fatto a fare un terzo lockdown, è per oggi, e c'è molta preoccupazione perché, d'accordo, naturalmente sappiamo il Natale non è una festività di chi ha fede ebraica, però comunque questo è un periodo in cui ci sono tante altre occasioni per riunirsi, e comunque ci sono anche persone di fede cristiana in Israele, e quindi preoccupa molto questo doppio, ecco, in UK hanno la Brexit e il Covid, e adesso in Israele avranno le elezioni anticipate e il Covid. Allora, noi abbiamo appena raccontato del sondaggio secondo cui l'80% circa degli italiani sono con qualche distinguo ma favorevole a farsi il vaccino, o subito o tra qualche mese. Hai notizie sulla Francia, vero? Francia, sulle sì. Prime pagine dei giornali, cosa c'è, un sondaggio? Non ci sono sondaggi, però, ma quasi come se avessero paura a fare un sondaggio in questo momento, perché se diciamo il tema oggi è un po', le prime pagine sono un po' rubate dalla scomparsa di Claude Brasseur, questo fantastico attore, aveva 84 anni, io poi per il tempo delle mele, 1980, è rimasto il papà di Sophie Marceau, ma quindi c'è naturalmente il ricordo di questo grande attore francese, però per esempio l'Humanité titola la sfida della vaccinazione, perché in Francia c'è, secondo gli ultimi sondaggi disponibili, la più bassa percentuale di persone, siamo intorno al 60%, che dice che sicuramente lo farà. Abbiamo visto in Italia siamo 20 punti sopra, perché in Francia nel 2009 c'è stato un episodio di influenza molto grave, le persone che si erano vaccinate come ogni anno per l'influenza, in realtà molte l'hanno presa comunque, c'è stato poi un problema con i vaccini, insomma molte persone sono ancora scottate. In realtà 11 anni, abbiamo capito, nel mondo della ricerca ci hanno proiettato in un universo che non credevamo neanche potesse esistere, però è chiaro che su temi così chi si ricorda quell'episodio ulteriormente, insomma, rende difficile questa sfida. E poi naturalmente c'è la sfida della logistica. Nel Regno Unito si sta cominciando a capire che fare due dosi a distanza di 3 settimane, e deve essere quello l'intervallo, alle stesse persone, facendo il tracciamento dove sono stati, recuperarli, è difficilissimo dal punto di vista logistico. E se probabilmente gli Stati Uniti sono pronti, grazie a Donald Trump, nel Regno Unito ieri l'NHS ha lanciato l'allarme: non siamo pronti. Ecco, ti stavo per chiedere i titoli dei giornali inglesi. Sì, c'è naturalmente questo allarme, cioè tutti i general, sì, practitioners, l'equivalente dei nostri medici di base, che dicono we want to protect patients, cioè certo che li vogliamo vaccinare, ma ci sono degli inevitabili rallentamenti, perché ripeto, ci sono delle difficoltà logistiche anche legate a tutto quello che sta succedendo di approvvigionamenti vari, che non riescono a entrare nei tempi programmati nel Regno Unito. Tra questi ci sono anche delle lo sappiamo, insomma, quanto da noi ha contato la supply chain delle mascherine, di tutto quello che era accessorio alla protezione del sistema sanitario nazionale nella prima fase. E così sta succedendo anche nel Regno Unito. Le foto naturalmente sono di queste code chilometriche di TIR. È vero che adesso verranno testati tutti gli autisti di TIR, ma intanto prima di Natale la situazione è fuori controllo, tanto che ieri Johnson si è spinto a ipotizzare un'ulteriore restrizione dopo il Boxing Day, che è l'equivalente del nostro Santo Stefano. Va bene, è tutto per oggi. Noi ci sentiamo domani per l'ultima puntata, giorno di vigilia di Natale. Grazie a Giulia. Oggi in regia Pietro Lacorte, come sempre in redazione Jacopo De Franchi. Noi ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14. Ciao, buona giornata.